GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Lo stop del governo ai bonus edilizi scatena le critiche dei costruttori, panico tra le imprese, rischio fallimenti. Confermati dalla regione altri 3 mesi di sconto sulla benzina e la riduzione di 10 centesimi per i comuni di confine. Piccolo e Messaggero Veneto, sciopero nei quotidiani, preoccupa la prospettiva di cessione senza garanzie per il futuro. Terremoto in Turchia, parla il vigile del fuoco pordenonese nel team che ha trovato il corpo del commerciante veneto disperso. A Udine apre i battenti insieme a Casa Cavazzini, la grande arte europea in collaborazione con il Comitato di San Floriano. Niente cittadinanza, niente europei, la storia della triplista di Pordenone, campionessa juniores italiana. Udinese in campo a San Siro alle 20.45 contro l'Inter, seconda in classifica, Sottil, avremo coraggio e attaccheremo. Sarà la pattinatrice olimpionica Carolina Cosne a inaugurare il palaghiaccio al CEO della Valentina di Clout, lo spettacolo è già sold out. 7:19 minuti di sabato 18 febbraio, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli, uno sguardo al meteo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, le temperature registrate alle 6, a Trieste 7,5 gradi, a Gorizia 6 gradi, a Udine 7, a Pordenone 6,5 gradi. Sul Piancavallo meno 1 grado, a Tolmezzo 4,5 gradi, a Forni di Sopra 1 grado, a Tarvisio 3,5 gradi, a Sappada meno 1,5 gradi. Sul Monte Lussari 5,5 gradi, sullo Zoncolan 3,5 gradi, sulla costa Lignano 8 gradi, 7,5 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi, dalla costa alle Prealpi cielo coperto per nubi basse con foschie e nebbie più frequenti nelle ore più fredde, possibili locali piovigine specie verso est. Sulla zona montana, nuvolosità variabile con più sole e temperature molto miti su Alpi e in quota. Zero termico in ulteriore rialzo a 3.000 metri. Temono un tracollo gli imprenditori del comparto edile dopo lo stop deciso in Consiglio dei Ministri alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura. Di fatto è la fine del super bonus e delle agevolazioni che negli ultimi anni hanno fatto correre il settore. Una decisione che in Friuli Venezia Giulia rischia di avere un grave impatto per centinaia di imprese e migliaia di famiglie. Lo stop del governo alla cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus edilizi, superbonus compreso, sui nuovi interventi, ha messo in fibrillazione l'intero comparto delle costruzioni, ma anche i tanti privati che hanno in corso i lavori. La nuova norma varata ieri dal Consiglio dei Ministri, inoltre, spegne sul nascere l'esperienza, da poco avviata da alcuni enti pubblici, regione compresa, di acquistare i crediti incagliati. È il 19° cambiamento su questa norma da quando è entrata in vigore, dice il vicepresidente nazionale dell'Associazione Costruttori, Piero Petrucco, per il quale si tratta di un provvedimento sbagliato che mina la fiducia dei cittadini e delle imprese nei confronti dello Stato e mette a rischio reale tutto il comparto edilizio che adesso, oltre che indebitato, non sa come procedere, aggiunge. Per Petrucco l'incognita maggiore pesa sui condomini. Senza lo sconto in fattura sarà impossibile fare qualunque intervento e quelli già in corso rischiano di essere lasciati a metà, sottolinea, aggiungendo di non capire come il tutto si inquadri con la nuova direttiva europea che impone la riqualificazione energetica entro il 2030 di tutte le abitazioni. Cambiare le regole in corsa non è da paese civile, tuona il presidente regionale di ANCE, Roberto Contessi, che parla di incomprensibile accanimento di questo governo verso il settore e che insieme alle altre associazioni di categoria ha già sollecitato la regione a intervenire e ha chiesto l'attivazione di un tavolo urgente. Contessi fa sapere di essere subissato in queste ore dalle telefonate degli imprenditori nel panico e stima alcune centinaia di milioni incagliati solo per le sue 200 imprese associate in regione e molti cantieri che non sono potuti partire proprio per le continue modifiche alla norma dei bonus edilizi. C'è il rischio, ora avverte, che molte imprese falliscano con chiare conseguenze su banche, famiglie e l'intera filiera. La regione afferma di essere impegnata a trovare soluzioni col governo che lunedì prossimo sentirà le associazioni nazionali di categoria. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Presentati ieri sera alla Fiera di Pordenone i candidati provinciali di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale. Ospite il presidente della Commissione e più volte ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Ha dialogato con lui Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, che ha difeso la cancellazione dei crediti per i bonus edilizi ma ha aperto a modifiche. È stato Giulio Tremonti ad accompagnare la presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale per la circoscrizione di Pordenone. L'attuale presidente della Commissione Esteri della Camera ha dialogato sul palco con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Convinta da parte di Ciriani la difesa del decreto del governo che ha sospeso la cessione dei crediti per i bonus edilizi. Ma rimangono aperte le porte a modifiche anche alla luce dei mal di pancia nella maggioranza. Purtroppo i conti pubblici sono minacciati da una voragine rappresentata da 110 miliardi di debito generati dal superbonus. Questa è una questione dolorosa che andava affrontata. Siete aperti a modifiche? Alcune modifiche si potranno fare, però bisogna rendersi conto che il problema del superbonus è un problema gigantesco e che non può essere, come dire, accantonato. Molti hanno passato il cerino a quelli che venivano dopo. A un certo punto il governo Meloni ha dovuto scegliere perché non si poteva rinviare. Tremonti ha definito una scelta giusta nei tempi sbagliati la globalizzazione come l'abbiamo vissuta negli ultimi decenni con l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001. Il 4 volte ministro dell'Economia e professore universitario ne ha parlato nel suo ultimo saggio. Adesso vediamo che la globalizzazione finisce o si rompe. Dobbiamo immaginare un mondo che non è più globale come era alcuni anni fa. Per Tremonti l'economia italiana ha bisogno di meno regole. Servono le regole giuste e non quelle non giuste. Se Guglielmo Marconi cominciasse adesso a fare l'imprenditore finirebbe in galera. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A Gorizia, presentazione della lista di Fratelli d'Italia per le prossime elezioni regionali del 2-3 aprile alle 11.30 nella sede dell'Unione Ginnastica Goriziana, sala Caminetto, in via Giovanni Rismondo. A Fagagna, la regione giusta, incontro organizzato dal Patto per l'Autonomia, nuova tappa del percorso partecipato della coalizione a sostegno di Massimo Morettuzzo, candidato alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, in sala Squigni alle 15.30. Alle 10 alla Casa della Contadinanza in Castello a Udine sarà presentata la lista civica che sosterrà la candidatura a sindaco dell'uscente Pietro Fontanini. Giro all'insegna della mobilità sostenibile per il candidato sindaco di Udine Alberto Felice Dettoni, sarà alle 8.30 nel panificio in piazza Irizzi, poi al Twist Bar di via Chisimaio nel quartiere di San Domenico, alle 11 al Parco Moretti, alle 12.15 alla trattoria Il Contadino in via Pozzuolo nel quartiere di Santo Svaldo e infine alle 13.45 all'antica osteria da Pozzo in piazzale Cella. La Regione Friuli Venezia Giulia conferma anche per i prossimi 3 mesi l'extra sconto su benzina e diesel. L'esecutivo regionale ha deciso di prorogare gli sconti stabiliti il 20 gennaio, validi fino al 28 di febbraio per la Giunta. Le motivazioni che avevano portato all'approvazione dell'extra sconto legate ai forti aumenti del prezzo e alla concorrenza dei distributori oltre confine permangono. L'obiettivo è di limitare il cosiddetto turismo del pieno. Fino al prossimo 31 maggio nei comuni della zona 1 rimane confermato lo sconto di 29 centesimi al litro per la benzina e di 20 centesimi per il gasolio. Per i comuni della zona 2 rimarrà lo sconto di 22 centesimi per la benzina e di 16 centesimi per il diesel. Nei 74 comuni ricompresi nella fascia 0 confinaria viene confermata l'applicazione dell'extra sconto di 10 centesimi al litro per benzina e gasolio. Resta confermato anche lo sconto di ulteriori 5 centesimi per le auto ibride. E quella in corso è la 18ª edizione della Settimana Internazionale del Risparmio Energetico. L'iniziativa è correlata alla cosiddetta transizione energetica, termine con cui viene indicato il passaggio dall'utilizzo di fonti energetiche ad alta impronta carbonica a quelle a basse emissioni. Ne abbiamo parlato con Marina Cobal, direttrice della Scuola delle Energie Rinnovabili dell'Università di Udine. Sappiamo che ci sono delle soluzioni per la produzione di energia rinnovabile, sostenibile, eccetera, ma ancora tanto va fatto e occorre che, diciamo, gli scienziati si adoperino per andare avanti con la ricerca, ma anche che le industrie, le ditte, diano fiducia all'innovazione, perché in Italia c'è sempre un pochino paura di cominciare qualcosa di nuovo. E anche se guardiamo in regione ci sono diverse iniziative volte a proporre qualcosa di nuovo, Per esempio all'Università di Udine è stato sviluppato un concentratore solare di nuova concezione, il cosiddetto specchio lineare, che è capace di riscaldare fino a 400 gradi, quindi può avere impieghi nel privato, nelle aziende, si possono essiccare, sterilizzare biomasse. Si sta sviluppando adesso un gasificatore capace di sviluppare una temperatura di 1200 gradi, molto piccolino, non il solito gasificatore enorme, in cui si possono bruciare biomasse di scarto. L'Italia produce milioni di tonnellate di biomassa che poi vanno buttate via. L'Ateneo di Udine appoggia tutte queste iniziative, non c'è solo questo, ci sono studi relativi alla produzione sperimentale di biochar, celle a combustibile, processi catalitici o elettrocatalitici per la produzione di idrogeno e anche syngas, e anche studi per la valorizzazione della CO2. Quindi c'è tutta una serie di attività in regione in questo momento che si spera portino anche a proprio dell'innovazione tecnica, perché le rinnovabili si stanno espandendo. Quello che abbiamo capito è che le rinnovabili vanno adattate all'ambiente. Diciamo, una pala eolica può star bene in Olanda, ma non sta tanto bene a Trieste, dove ci lavora. Oltre, diciamo, all'innovazione tecnica e tecnologica, ci sono anche tanti altri argomenti connessi alle energie rinnovabili, alla sostenibilità, che, diciamo, in questo momento sono trattati ampiamente. Ci sono workshop, seminari, tra tutti vi indico il workshop Scienza e l'alimentazione sostenibile, che sarà il 23-24 febbraio, il primo giorno a Trieste e il secondo giorno a Udine. Tra l'altro sarà nel nuovo auditorium della biblioteca scientifica e tecnologica del nostro Ateneo. Ci sono tante altre iniziative, nonché diciamo, tutta la parte di filiera dell'educazione alla sostenibilità e a un nuovo concetto di produzione e utilizzo di energia. Ricordo sempre la scuola di Sesto, il 5-10 giugno quest'anno, e la SIER, la nostra scuola di introduzione alle energie rinnovabili a Udine, il 19 settembre fino al 24. È coordinato da un vigile del fuoco di Pordenone, il gruppo che sta partecipando alle ricerche dei dispersi nel terremoto che ha sconvolto la Turchia e che ha ritrovato il corpo senza vita del Veneto, Angelo Zen. Si sta per concludere la missione in Turchia dei tre vigili del fuoco provenienti dal Friuli Venezia Giulia, che fanno parte dell'unità USA Urban Search and Rescue, incaricata della ricerca di sopravvissuti fra le macerie delle città più colpite dal terremoto che ha devastato la Turchia e la Siria. La loro base si trova ad Hatay, nel sud-est della Turchia, ed è stato proprio uno di loro, Marco Borrello, a fornire un importante contributo per il ritrovamento del cadavere di Angelo Zen, l'italiano disperso in un hotel a Kahraman Maraş. Quello che sono riuscito a fare è stato coordinare e reperire più informazioni possibili per produrre una planimetria e riuscire ad arrivare a una lista degli ospiti mancanti all'appello, fondamentalmente. E grazie a una serie di oggetti ritrovati sul sito di lavoro, grazie a una collaborazione stretta con il team dell'ambasciata italiana ad Ankara, l'unità di crisi della Farnesina, carabinieri e polizia di Stato che provenivano direttamente dall'Italia, siamo riusciti fondamentalmente a individuare la stanza del connazionale, che era la 211, e con le macchine operatrici giungere fondamentalmente dove poi abbiamo fatto il ritrovamento del corpo. Il ritrovamento di sopravvissuti a distanza di giorni ha incoraggiato la prosecuzione delle ricerche. È stato possibile individuare le aree delle vittime disperse anche grazie all'unità del soccorso alpino della Guardia di Finanza, che ogni giorno veniva con me, si mobilitava dal campo base, noi eravamo ad Hatay e giungevamo sul posto, quindi lavoravamo in stretta collaborazione tra noi, soccorso alpino della Guardia di Finanza, e le squadre USAR presenti sul posto, turche. Gli altri due vigili del fuoco regionali presenti in Turchia sono i cinofili del comando provinciale di Gorizia, il coordinatore Andrea Leban e Marco Tomasella. La squadra ripartirà per l'Italia sabato notte. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. I quotidiani Il Piccolo e Il Messaggero Veneto oggi non sono in edicola, giornalisti in sciopero dopo aver avuto la conferma che la proprietà ha intenzione di vendere questi ed altri quotidiani del gruppo Gedi. confermate le voci sulla vendita del Piccolo e del Messaggero Veneto. Le trattative sono già in corso. Ad annunciarlo durante l'incontro del 15 febbraio il gruppo editoriale Gedi, al quale fanno riferimento Repubblica, Stampa e 9 giornali locali, e che 3 mesi fa aveva garantito che il perimetro delle testate non sarebbe stato messo in discussione. Nel frattempo pare siano state smentite le voci sulla probabile acquisizione del Messaggero da parte di una cordata di imprenditori veneti. Oscar D'Agostino, del CDR del Messaggero Veneto. Il rischio di uscire da un gruppo grande, un gruppo editoriale grande come Gedi, è il rischio di ripartire da zero, cioè il rischio di dover contrattare nuovamente gli organici, naturalmente, in primo luogo. Poi ci sono tutta una serie di questioni tecniche, cambiamenti che implicano un lungo lavoro di trattativa, evidentemente. Nessuna manifestazione di interesse invece per il Piccolo, per il quale il futuro si prospetta molto incerto. Diego D'Amelio, del CDR del Piccolo. Non conosciamo l'identità di queste cordate che sono interessate, questo ovviamente ci preoccupa, e aspettiamo di capire quindi che ruolo potrà avere il Piccolo, che ruolo potrà avere il Messaggero Veneto, tutti i giornali locali del gruppo e a questo punto anche Repubblica e La Stampa nel sistema dell'informazione italiano. Il presidio della democrazia è stato messo sul mercato al miglior offerente che passa, ha dichiarato il presidente di Assostampa, Carlo Moscatello, che si aggiunge alle tantissime manifestazioni di solidarietà arrivate dal mondo della politica, dell'editoria e della cultura. L'informazione è importante, l'informazione locale mantiene la sua importanza. Io credo che sia una scelta che non hanno più ritenuto l'informazione invece un settore su cui puntare a livello proprio di sviluppo industriale. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. È tornata a riunirsi la rete dei giovani ambasciatori del Friuli Venezia Giulia. Il gruppo di lavoro composto dall'Ente Friuli nel Mondo e da altre associazioni di corregionali all'estero, tra cui Giuliani nel Mondo e Fasce, Unione Emigrati Sloveni del Friuli Venezia Giulia, che comprende una trentina di giovani under 35 residenti in Europa per motivi di lavoro o di studio, animerà il secondo seminario sull'emigrazione dei giovani corregionali. Dopo la giornata inaugurale di ieri, oggi i lavori si terranno tra Udine con un convegno dalle 9.30 nella sede universitaria di Palazzo Toppo Wasserman, incentrato sulla mobilità internazionale verso l'estero e dall'estero, e poi a Gorizia, dove si terrà una conferenza sul confine mobile del Friuli orientale e l'appuntamento del 2025 che vedrà Gorizia e Nova Gorizia unite come capitale europea della cultura. Passiamo alla cultura, iniziando con l'arte. Vasily Kandinsky, Salvador Dalì, Alberto Savinio De Chirico, Renato Guttuso, Michelangelo Pistoletto, il friulano Mirko Basaldella sono solo alcuni degli artisti in mostra per Insieme, esposizione in cartellone da oggi fino al 16 luglio a Udine, a Casa Cavazzini. Curatore della mostra è Don Alessio Geretti, a cui abbiamo chiesto come è nata l'esposizione. La mostra Insieme è nata dall'intuizione che i rapporti, le relazioni, i contatti, gli incontri sono la dimensione più importante della nostra esistenza. Nello stesso tempo sono anche un terreno di prova della nostra umanità, perché sperimentiamo incomprensioni, incomunicabilità, distanze, misteri, per cui si tratta davvero di un mondo da sondare, tanto più nella nostra epoca che paradossalmente ci mette a disposizione degli straordinari mezzi per comunicare, ma con un'inflazione del virtuale e forse un aumento dell'aggressività e dell'indifferenza tali che rischiamo di smarrire il senso della prossimità. Una mostra che ci aiuti a risvegliare invece il senso della prossimità era più che opportuna a questo punto. Ci sono 55 opere in questa esposizione che vengono da 8 paesi diversi dell'Europa, sono un viaggio meraviglioso nell'arte moderna e contemporanea dal 1851 fino al 1992, danno testimonianza della migliore arte dei preraffaelliti, dei simbolisti, del surrealismo, delle secessioni da Austria, di Croazia, di Monaco e via di seguito, fino alle ultime scoperte, diciamo così, dell'arte astratta a Kandinsky. Quindi si tratta anche di un meraviglioso viaggio nella storia della bellezza degli ultimi 2 secoli. Qual è il quadro che avete fatto più fatica a portare per delle particolarità, magari anche di assicurazioni o di rarità? Direi senza dubbio il quadro dal lunghissimo titolo di Salvador Dalí, non so per il suo pregio, ma proprio perché appartiene a un luogo, la Casa Teatro Museo di Salvador Dalí a Figueres, in cui quell'opera è il simbolo, il centro, il cuore, e non se ne privano mai, per cui per convincerli l'idea doveva essere veramente molto bella ai loro occhi. Per fortuna ne sono rimasti affascinati, altrimenti non l'avremmo avuta, perché non la prestano praticamente mai. Fiorenza Cedolins e Roberto Valerio sono i nuovi direttori artistici del Teatro Giovanni da Udine, rispettivamente per la musica e la danza e per la prosa. In queste notti non ho dormito. È l'emozione di Fiorenza Cedolins, appena nominata nuova direttrice artistica, musica e danza del Teatro Giovanni da Udine. Insieme a lei è stato scelto Roberto Valerio come nuovo direttore artistico per la prosa. L'annuncio ufficiale in conferenza stampa che si è tenuta nel Teatro Udinese. I due nomi sono stati selezionati con un bando pubblicato lo scorso dicembre e scelti tra oltre 30 candidature. Cedolins viene dal mondo dell'opera, soprano, vanta 30 anni di carriera prestigiosa che l'ha portata in tutti i principali teatri del mondo e con collaborazioni con giganti come Claudio Abbado e Mario Monicelli. Per lei la nomina a Udine è la chiusura del cerchio. Fiorenza Cedolins, direttrice artistica, musica e danza del Teatro Giovanni da Udine. Io sono friulana e però da oltre 30 anni la mia carriera mi ha portato a frequentare tantissimo il resto del mondo, però il Friuli è sempre, sono le mie radici, sono molto molto attaccata a queste radici. Ha collaborato con grandi nomi della musica e non solo, anche del cinema. Ne vuole portare qualcuno qua a Udine? Eh beh, ma certo, soprattutto le persone con cui sono rimasta in legame di amicizia oltre che di stima professionale, sono le persone a cui naturalmente mi rivolgerò prima, anche per un fatto, è naturale che sia così, ma non solo a loro. È invece attore, regista e organizzatore di festival Roberto Valerio. Nel suo carnet ci sono regie di opere di Chekhov, Molière e Pirandello. Il pubblico di Udine, dice, è un pubblico importante e preparato, abituato a eventi importanti. Per questo anche il teatro ha bisogno di spettacoli importanti. Roberto Valerio, direttore artistico prosa del Teatro Giovanni da Udine. Il mio lavoro sarà sicuramente nel solco della continuità. Questo vuol dire riuscire a fare un teatro d'arte popolare, quindi un teatro di grande qualità, e naturalmente mi farebbe molto piacere riuscire a portare spettacoli o attività che riguardano il territorio. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora alcuni degli spettacoli oggi in locandina in regione. Per la musica The Duke, un mito di nome Ellington, è il concerto di composizioni del periodo dedicato al Cotton Club di New York e ai grandi classici dei compositori di Washington, in cartellone a Spilimbergo, al Cinema Teatro Miotto, alle 20:30. A teatro l'attore Enrico Bertolino è protagonista di Instant Theater, aggiornato, riveduto e scorretto, in scena a Trieste al Teatro Bobbio alle 20:30. Scarpette rotte, lo spettacolo di Emma Dante che riscrive la classica fiaba di Hans Christian Andersen rivolto ai giovanissimi dagli 8 anni in su, ed è in scena Udine al Teatro Palamostre alle 19. Il docente e autore Angelo Floramo con lo chef Giovanni Fassetta alla fisarmonica in Il pranzo della domenica al Teatro Mascherini di Azzano Decimo alle 20:45. La vita al contrario è l'adattamento teatrale firmato da Pino Tierno de Il curioso caso di Benjamin Button, racconto pubblicato nel 1922 da Francis Scott Fitzgerald, che sarà in scena a Colugna al Teatro Bonn alle 20:45. E parla di emozioni lo spettacolo per giovanissimi dal titolo Cuore, in scena a Gorizia, Culturni Center Bratusch alle 16:30. Apriamo la pagina dello sport con la storia di una giovanissima stella dell'atletica che è nata e cresciuta a Pordenone a 17 anni ed è campionessa juniores del salto triplo, ma rischia di non poter gareggiare in azzurro ai prossimi europei. È molto un paradosso perché comunque sono considerata campionessa italiana, ma non potrò partecipare agli europei come italiana. Con un salto triplo da 12 metri 88 centimetri ai campionati italiani, che le è valso il record regionale di categoria, la 17enne Mifri Veso si è aggiudicata la qualificazione per gli europei in Israele in programma ad agosto, ma rischia di non poterci andare. Nata e cresciuta a Pordenone, di origini congolesi, non ha la cittadinanza italiana, la potrà chiedere solo a 18 anni. Un paradosso: essere la campionessa italiana ma non poter rappresentare il paese alle competizioni internazionali. Mi sento una cittadina di serie B perché io non sono considerata come gli altri miei compagni di classe o comunque i miei amici che sono italiani in una carta, però io faccio le loro stesse cose, lo stesso allenamento, vado comunque a scuola come fanno loro, faccio tutto quello che fanno loro, però non sono considerata italiana. Mi dispiace molto perché mi sto allenando molto per i miei obiettivi, il mio grande sogno è indossare la maglia azzurra e non potrò farlo. Mifri potrebbe ereditare la cittadinanza dalla madre che ne ha fatto richiesta, ma potrebbero comunque non esserci i tempi tecnici. I legali dell'atleta intendono ricorrere alla Corte Europea dei Diritti Umani. Nel frattempo, lei continua a saltare e sognare. La speranza è l'ultima a morire, io spero ancora di fare gli europei under 20 di quest'anno a Gerusalemme. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora il calcio: Udinese in campo a San Siro questa sera alle 20:45 contro l'Inter, seconda in classifica. Sentiamo le considerazioni della vigilia di mister Andrea Sottil. Dobbiamo essere molto molto concentrati, molto attenti nella fase difendente, organizzati, ma nello stesso tempo avere un sacco di coraggio. Quello che ci siamo detti è questo: avere coraggio, come abbiamo sempre dimostrato, di andarci a giocare le partite a testa alta, portando la nostra idea di gioco, la nostra identità, che è ben precisa e ben consolidata, e andare a giocarci la partita. Giocarci la partita vuol dire non guardare solo l'Inter che gioca o correre dietro all'Inter, ma ogni volta che riconquisteremo la palla, attaccare dove abbiamo provato, ogni volta che abbiamo il pallone, costruire giocate che li possono assolutamente rimettere in difficoltà. Per la Serie C di calcio, il Pordenone sarà impegnato alle 14:30 sul campo del Trento, guidato dall'ex Tedino. Trasferta anche per la Triestina, oggi a Padova, fischio d'inizio alle 17:30. La pallanuoto: nella quinta giornata di ritorno del campionato di Serie 1 maschile, la Pallanuoto Trieste ospita l'Anzio Waterpolis, si gioca la Bruno Bianchi alle 20. Nella Serie 1 femminile, le Orchette Alabardate affrontano in trasferta il Bogliasco 1951, si gioca nella piscina Vassallo, inizio alle 15. E giocano anche le regionali del basket di A2 femminile, Women Apu Udine alle 20:30, in casa del Carugate Futurosa Trieste in trasferta a Bolzano alla stessa ora. Per il biathlon torna in gara questo pomeriggio Lisa Vitozzi, impegnata nei campionati mondiali di Oberhof in Germania. Oggi si disputerà la staffetta femminile, in cui l'Italia dovrà cercare di rimanere al passo delle grandi favorite. La formazione è stata cambiata, la Sappadina, la più forte delle azzurre, sarà schierata in ultima frazione, partenza alle 15. Lo sci alpinismo: dopo lo stop della pandemia torna la storica Ski Crono Varmost, gara in notturna lungo le piste del Varmost, giunta alla 19ª edizione. Novità di quest'anno: la possibilità di partecipare con ciaspole o ramponcini. Due i percorsi, entrambi con partenza a fondo valle nei pressi della seggiovia, quota 930 metri. Si tratta della Ski Crono storica, con dislivello di 830 metri fino a Malga Varmost, aperta a tutti, e della Ski Crono Extreme, con dislivello di 1150 metri, fino al Monte Krusikalas, riservata ai tesserati fisi, appuntamento dalle 17 a Forni di Sopra. Per la pallamano, la formazione triestina sarà di scena alle 20:30 sul campo dell'Arcobaleno Oriago, formazione attualmente relegata all'ultimo posto della classifica. Per noi, ha detto il direttore sportivo Veglia, non è stata affatto una settimana semplice da affrontare, vista l'indisponibilità del Palacchiarbola, e la squadra ha dovuto fare di necessità virtù allenandosi non nelle migliori condizioni possibili, ha concluso Oveglia. Basket in carrozzina: dopo l'importante vittoria nella partita giocata in casa contro l'Albatros Trento, oggi al Palazzimolo di Gradisca la Castelvecchio ritorna in campo contro Icaro Brescia, incontro alle 16:30. La pattinatrice olimpionica Carolina Cosne sarà protagonista dell'evento Dolomio on Ice di inaugurazione ufficiale del palaghiaccio Alceo della Valentina di Clout, in programma dalle 18. Devoluto in beneficenza parte del ricavato dei biglietti di partecipazione destinato ai pazienti dell'area giovani del centro di riferimento oncologico di Aviano. La struttura che ha ospitato le gare di curling del Festival Olimpico della Gioventù Europea in seguito ai lavori di ristrutturazione è accessibile dalle 14 alle 16.30 il martedì, il mercoledì e il venerdì invece dalle 10 alle 12, dalle 14 alle 19 il sabato e infine la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19. Ora le iniziative di oggi legate al carnevale a Trieste, la sfilata rionale di Roiano con accompagnamento della Filarmonica di Santa Barbara, ritrovo alle 15 in piazza Tra i Rivi, previsto di divieto di sosta dalle 12 alle 18 in via dei Moreri con interruzione dalle 15 alle 16 lungo la direttrice piazza Tra i Rivi via di Roiano. Altro appuntamento cittadino, quello con l'animazione e la musica di Mauro Mani in piazza Unità dalle 14. In calendario poi festeggiamenti del Carnevale Carsico con il tradizionale corso mascherato di carri e maschere o piccina dalle 14. Per l'occasione è previsto il divieto di sosta e transito fino alle 20 in strada per Vienna, via di Prosecco, via del Ricreatorio, via Nazionale. Altre iniziative, quelle del Carnevale Resiano con le maschere tradizionali nella frazione San Giorgio, nel salone dell'Associazione San Giorgina alle 20.30. 7:48 minuti, come avete sentito i quotidiani, Messaggero Veneto e Piccolo oggi non sono in edicola. Sui due inserti del Gazzettino del Friuli e di Pordenone l'apertura è comune sullo stop al bonus, 1.000 imprese in bilico. Il settore conta quasi 4.000 lavoratori, rischia di più chi ha puntato tutto sulle ristrutturazioni. Identica anche la fotonotizia dedicata alla pioggia di milioni arrivata in regione con il Super Enalotto. Ci sono 9 nuovi milionari, 5 a Codroipo, 2 a Cormons, 1 a Attimis, 1 a Trieste, grazie alle quote del sistema che ha sbancato il Montepremi record. Sul dorso del Friuli c'è un titolo per 8 ricercati rintracciati dalla polizia di Udine anche all'estero. Erano destinatari di mandati di arresto dopo sentenze dei tribunali di Bologna, Rimini, Parma, oltre che di Udine e Trieste, soprattutto per reati contro il patrimonio. In 3 sono finiti in carcere a Udine, altre misure in Croazia, Romania, Grecia. Udine, l'azienda sanitaria Friuli Centrale amplia il raggio a caccia di medici extracomunitari, nuova chiamata gettone per sopperire alle carenze di organico nei reparti dell'emergenza. Poi il personaggio, l'architetta friulana alla Biennale di Venezia, l'udinese Barbara Motta, e in taglio basso lo sport con il calcio sottil udinese a San Siro con tanto coraggio. In prima pagina del Gazzettino, edizione di Pordenone, c'è un titolo sulla truffa criptovalute messa in atto dalla NFT di Siolea. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato auto e orologi di lusso. Ad aprire il fascicolo sull'azienda ad agosto era stata la Procura di Pordenone guidata da Raffaele Tito. Di spalla Maniago, la dirigente, ferma il carnevale nella scuola per i bambini, mascherine fai da te per festeggiare, senza differenze. Dalla pagina di Aviano, il generale Clark ai militari di stanza nella base USAF dice: divertitevi con onore, non guidate se avete bevuto. C'è poi un box con la truffa a un'anziana di Pordenone, a cui è stato detto sua figlia in ospedale, così per sottrarle 2.000 euro. In taglio basso il calcio, il furore dei neroverdi contro il Trento di Tedino, l'allenatore neroverde Di Carlo ha detto lottare dal primo all'ultimo pallone. Dai quotidiani nazionali, il Sole 24 Ore pubblica un servizio dedicato agli Oscar Green dell'associazione Coldiretti che sono stati aggiudicati ieri a Roma, in cui si segnala anche tra i partecipanti il Teatro di Viti organizzato nella campagna friulana del Refosco, dove si arriva con un QR code per gustare vino e ascoltare un concerto live di musica classica in mezzo alle vigne. Ancora alcuni appuntamenti di oggi, armi e castelli, il periodo medievale attraverso i castelli e le armi antiche, giornata di studio in programma Udine, Sala Madrassi in via Gemona dalle 10. Strip art, sogni e realismo nei primi maestri del fumetto e la mostra in inaugurazione a Pordenone al Palazzo Arti Fumetto Friuli alle 11.30. Laboratorio calchi per giovanissimi al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste dalle 10, attività gratuita con pagamento del biglietto d'ingresso. Il libretto informativo Il Mitreo tra storia e leggenda sarà distribuito in occasione della visita guidata in programma Duino al Mitreo dalle 10. La Questura di Udine ha organizzato per la mattina e il pomeriggio di domani, domenica, un'apertura straordinaria degli sportelli, circa 80 i posti a disposizione nell'agenda online dei passaporti della Questura. L'apertura straordinaria sarà destinata esclusivamente a chi abbia provveduto già a fissare l'appuntamento anche nei commissariati di Cividale e di Tolmezzo. Apertura straordinaria domattina degli sportelli. Passiamo alla rubrica della TGR, oggi sarà in onda su Rai 3 settimanale, ecco la scaletta degli argomenti. Torno settimanale, in questa puntata, la farina di grillo ora può essere commercializzata, abbiamo cercato di capire di cosa si tratta. La Human Technopol di Milano, i giovani scienziati italiani rientrati dall'estero. Il cacciatore di relitti e le immagini dell'impavido affondato nel 44. Secondigliano è portiere di comunità, dalla cura del verde alle piccole commissioni un riferimento per il quartiere. Piloti si nasce, due volte campione del mondo, Miki Biasion e Rally. Con le ciaspole nella neve, nel parco regionale del Partenio, con pittori e musicisti. I carnevali d'Italia, da Venezia a Cento Putignano, oggi nel settimanale 12.25 Rai 3. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con Biblos. La puntata di oggi approfondisce ancora l'editoria riguardante la storia sul confine nord-orientale con Senza salutare nessuno, un ritorno in Istria di Silvia Daipra e La bambina con la valigia di Gigliola Alvisi e insieme all'editrice Fiorenza Mursia. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, in regia Carlo Morello e Andrea Fontanot, in redazione Daniela Sossi, da Maria Spezia Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.